Este sábado Subille, Julio Sánchez Cristo. Vida en para todos, que me la da. Lo llevará a San Remo. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Uno de los festivales más emblemáticos de la música europea. Nos vamos hoy para San Remo. Con Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo han recogido años de música bella que ha producido esa costa italiana. Al di là, Betty Curtis, Luciano Tajoli, 1961. Fue una cantante italiana, estuvo activa hasta 2004. Representó a Italia en Eurovisión. Luciano fue actor y cantante, y su único éxito fue haber ganado San Remo. Luego, Senza Pietà, de 1961, saltamos a 1999, Anna Oxa, una de las más famosas cantantes italianas. Tres veces ha estado en San Remo, dos veces ganó. Al di là della morte infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là. canta Ana Oxa. Ana Oxa. Thank you very much. Colomba, Nila Pizzi, 1952. Esta fue su segunda corona en el Festival de San Remo, siendo ganadora durante 2 años consecutivos. Adesso tú, 1986. Eros Luciano Walter Ramazzotti. Ramazzotti, un cantante de pop, figura pública muy conocida en América Latina. del cielo se fossi una colomba. Vorrei volar laggiù dove il mio amore. Che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu, diglielo tu, che tornerò, che tornerò. Dille che non sarà più sola, felici uniti e ci han divisi, e ci han divisi, ci sorrideva il sole, il cielo e il mare, noi lasciavamo il cantiere, lieti del nostro lavoro, e il campanon dindon ci faceva il coro. Le sere m'addormento triste e nei miei sogni piango, invoco te. Pure il mio vecchio ti sogno, penso alle pene sofferte, piange, nasconde il viso tra le coperte. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Dille che non sarà più sola, che mai più la lascerò. Diglielo tu che ai bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria popolare è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li hanno resi, dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato

avevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Quella di, fa vivi dall'arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Quella di, fa vivi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. Pensavi solo i soldi, i soldi. Come se avessi avuto soldi, i soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Chi non lavora se sciopero mia moglie dice momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan. Son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. La tragedia de Mocoa, la corrupción en los Juegos Nacionales de Ibagué, la violación de una niña indígena por miembros de la fuerza pública, el caso Zapa. María Camila Díaz y Joana Fuentes visibilizan las causas, los implicados, el avance de la justicia, lo que no se hizo y lo que falta por hacer. País sin memoria, en W Radio. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. El doctor Thomas Lovejoy, biólogo y presidente del Centro de Biodiversidad del Amazonas. Thank you very much for joining us on W Radio. Colombia has a very important portion of the Amazon. It has done some really important things, but it needs to be doing more in controlling illegal deforestation. Hugo Rodallega, jugador de proceso de selección Colombia, hace muchos años jugando en el exterior. Hugo, buenas tardes, bienvenido a la hora del regreso. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias a Dios he tenido muy buenos momentos, he mantenido, digamos, esa cuota goleadora en donde quiera que he ido. Juan Manuel Barrientos, primer chef colombiano que logró obtener una estrella Michelin. Bienvenido, Juan Manuel, a la hora del regreso. Hola, Gaby, hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Fue increíble, demasiado bacano, no nos la creíamos porque nosotros desde el cielo abrimos hace 4 meses el cielo en Washington, entonces también es una estrella que pasó muy rápido. La semana que comienza, permítanos acompañarle en la hora del regreso. Eso solo por W Radio. Constructora Bolívar, te invitamos a seguir cuidando de ti y tu familia. Por eso, este fin de semana te atenderemos de manera virtual, ya que en Bogotá nuestras salas estarán cerradas acatando las medidas de la alcaldía. Ingresa a www.constructorabolívar.com, regístrate en el proyecto de tu preferencia y nosotros te contactaremos. Te esperamos nuevamente en nuestras salas de venta el lunes y por nuestros canales virtuales. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Valerio Scanu gana en 2010 Per tutte le volte che, un cantante letrista italiano. Después de ganar Sanremo, su carrera se fue al éxito vendiendo más de 195 mil copias. Y luego Viale d'Autunno, Carla Boni, 1953, escrita por Giovanni Danzi. Se dice que esta canción fue propuesta para Nila Pizzi, pero decidió no grabarla. tutte le volte che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male. Per tutte le volte che è tua la colpa forse non lo è, ma il dubbio basta a farmi ritrovare quella voglia di gridare, ma poi c'è una volta in cui scatta qualcosa fuori e dentro noi, e tutto il resto è piccolo come uno spillo impercettibile, come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo più tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ormai siamo irraggiungibili. Tutte le volte che un pugno al muro nulla fa, perché questo dolore è dolce come il miele confrontato con il male che noi ci facciamo, se è così potente questo amore che ci difendiamo con tutta la forza ma non basta quasi mai, come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo più tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma ormai siamo irraggiungibili. Come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo, l'universo, l'universo, come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore. Ormai siamo irraggiungibili. Non potrò lasciarti più. Ci lasceremo mai, lo sai, lo sai. L'amor che ti giurai vive ancor di più. Tutta una vita di dolcezze, di tenerezze, non può svanire. Le carezze, le dolci ebbrezze non san mentir. Lasciam parlare il cuore che vive in ansietà, che trema di timor, che vuole questo amor. Or ne morrà potrò lasciarti più. Lungo un viale ingiallito d'autunno, tristemente m'hai detto è finita. En 1975 Gilda gana con Ragazza del Sud. Rosangela Scalabrino, una cantante italiana que debutó en 1969 con el famoso No Ferro de Calceta, uno de sus mayores éxitos. Su carrera la marcó precisamente San Remo. Y luego Francesco Gabani ganó en 2017 Occidentalis Karma. Es el único artista en toda la historia en ganar de manera consecutiva en dos categorías. Apprendi perché suona la messa, cammini a testa bassa, sorridi a chi conosci. Sei nata in un paese di aranci e di oleandri, ti hanno insegnato a credere, a vivere aspettando. A scioglierti i capelli e allora tremerai. Ragazza del Sud, tu che sogni il mio mondo, guarda solo il mio viso. Ragazza del Sud, al di sotto di quello che nasconde il sorriso, guarda cento giorni di vita, mille anni di vita, il primo bacio l'ho avuto, non ricordo da chi, il mio tempo non conta, la ragazza del sud, rimani a ricamare il tuo nome sul lenzuolo, spianto alla finestra col primo batticuore. Ripartirò sognando, forse un poco anch'io, sempre che io sappia ancora come si fa a sognare. Ragazza del sud, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, l'intelligenza è demodè, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Cercasi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei, now singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Y nos vamos con tres clásicos de Sanremo. 2015, Il Vole, Grande Amore. Habían ganado en Sanremo, fueron escogidos luego para Eurovisión, quedaron terceros. Enrico Ruggeri, 1993, Mistero. Empezó su carrera musical en los años 70 y luego decidió empezar a componer, siendo partícipe en Sanremo como intérprete y compositor. Y cerramos con la ganadora de 2018, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente. La letra de esta canción se queja de la guerra y la inútil violencia que está presente en el mundo. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua. È una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo silenzi stupidi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Sì, perché quando penso, penso solo a te. Presentarvi Luigi Schiavone. Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che si cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa telefonare? Cosa si cerca quando si dà? Quando si ama davvero, mistero. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma pace non abbiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già. Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Chi sono quelli nella foto da tenere? Cosa si cerca quando si dà? Quando si ama davvero, mistero. Sarai sincera, dimmelo, dimmelo. Sarai sincero. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa si cerca? Cosa si fa quando si muore davvero? sono adesso. Il sole sulla Rambla, oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare è rosso, di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna. È questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. Di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri. Minuti di silenzio spezzati da una voce: non mi avete fatto niente. Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. C'è chi si fa la croce, si prega sui tappeti, le chiese, le moschee, imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa. Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre. Cadranno i grattacieli e le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Vola via una bolla. Grazie. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.